Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno care amiche e cari amici. Bentrovati. Come vi siete svegliati oggi? Scrivetemelo subito 800 24 00 24 se invece volete raccontarmelo a voce, ma soprattutto siate pronti ad un secondo risveglio. A fianco a me Alberto Pellai, medico psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi ci risveglieremo grazie anche ai tuoi consigli, perché se la giornata è iniziata col piede storto abbiamo sempre una seconda chance, si può sempre raddrizzare. C'è sempre un secondo risveglio. Cambiato qualcosa? Io credo di sì, perché la musica ha proprio questo potere, ci risveglia, fa affiorare ricordi, dà voce alle emozioni, ci ricarica. E qui in studio con me un grandissimo musicista, Giovanni Allevi. Giovanni! Buongiorno, grazie del vostro invito e un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori. Giovanni, tu come ti sei svegliato stamattina? Allora, un po' strano, un po'... No, non con il piede storto, ma quasi, insomma, così. Non ho dormito tanto bene. Senti, a proposito di piede storto, che cosa fai quando ti svegli con la luna storta, di cattivo umore? Perché capiterà anche a te, poi con tutti quei ricci, chissà. Ma penso al grande filosofo Eraclito, che diceva che comunque tutto passa, tutto scorre. Quindi Pantarei. Attendo che le cose cambino dentro di me, perché anche i pensieri negativi sfumano. Un risveglio che porti nel cuore? Ma adesso in questo momento ricordo, io facevo gli scout quando ero ragazzino e ricordo una volta di essermi svegliato proprio in mezzo a un bosco, in mezzo alla natura. Veramente surreale, considerando insomma la vita che stiamo conducendo adesso. Di un risveglio particolare, Giovanni, tu parli nella presentazione del tuo lavoro. Mi svegliai da quel sogno convulso tutto intorpidito. Forse era un incubo, vagamente sensuale, a giudicare dal sudore sulla fronte. Ma il rumore mi riportò alla realtà. Ero su un aereo diretto in Giappone. Oltre al sibilo dei motori e all'aria condizionata, si era depositata nella mia mente, strappata da quel sogno, una toccante melodia per violino. Una lunga melodia per violino e orchestra, struggente e passionale. Tutto avrei creduto meno che la musica, dopo un silenzio di 2 anni, sarebbe tornata da me col timbro di un violino. Proprio un violino. Sollevai la tendina del finestrino. L'aereo sembrava scivolare su un letto uniforme di nuvole, tinte di un bellissimo rosso porpora. Era l'alba, l'inizio di un nuovo giorno che non aveva ancora vissuto nessuno. Questo lavoro, anche per come lo presenti, Giovanni, ci fa immaginare che è un punto di snodo tra un prima e un dopo. Alberto. Così è ogni risveglio, cioè proprio il risveglio della quotidianità, quello in cui finisce la notte e entri nel giorno. Ci sono risvegli potentissimi nella tua vita, c'è una zona grigia dove probabilmente hai nuotato, ti sei mosso con molta fatica, e quella zona grigia, quando rientra un raggio di luce, ti fa dire: ok, eccomi qua, mi sono svegliato di nuovo. E credo che sia proprio un po', per come lo abbiamo capito, il segreto di questo nuovo progetto di Giovanni. È così? È proprio così. È interessante l'idea della zona grigia, che è il momento di incubazione in realtà, in cui la nostra anima magari lavora in segreto finché prepara essa stessa le condizioni per accogliere quel raggio di sole, quel raggio di luce. Quindi fantastico, bellissimo il momento del risveglio, ma vorrei concedermi l'idea che ci sia dovuto anche un po' di rispetto nei confronti di quella zona grigia, che viene tanto considerata semplicemente in modo negativo. Invece è il momento dell'incubazione della nostra crisi, delle nostre sabbie mobili, che è importante affinché poi possa scaturire qualcosa di nuovo, possa iniziare quindi, il risveglio. Quindi una zona grigia di cui noi spesso abbiamo paura, ma che invece ci prepara ad accogliere questo raggio di sole. Sì, sì, assolutamente. È molto, molto bello anche il pensiero orientale, no? Che dice non c'è luce senza il buio. Ecco, sono due elementi che devono essere presi tutti e due in considerazione. Però viva la luce, viva... Buio e luce per il risveglio sono fondamentali, Alberto. Tra l'altro questa parola si presta ed essere declinata in tanti modi. Come riportato dalla Treccani, c'è il risveglio proprio inteso come un passaggio dal sonno alla veglia, dal buio alla luce, ma c'è il risveglio in senso figurato proprio come sinonimo di riscuotersi, di ravvivarsi, di ripresa di forza, di energia, di passione. Quindi, Alberto, l'invito di oggi per i nostri ascoltatori è: il mio risveglio, raccontatecelo voi, 800 24 00 24, un risveglio al mattino, il risveglio di oggi ad esempio, ma un risveglio anche nella vita, nel corpo, nella mente, nel sogno, nella realtà. Alberto, aggiungi? Ma direi che potremmo pensare da una parte proprio alla routine del risveglio, che cosa mi succede quando tutti i giorni riapro gli occhi sulla vita e mi metto in movimento. E quel passaggio lì, quel momento lì, è proprio un momento cruciale, perché è in quel momento che scrivo un po' già tutto il percorso che andrò a fare nell'ambito della mia giornata. Ma poi c'è un risveglio che riguarda alcune zone della nostra vita, qualcosa che ci è entrato dentro come un'onda. Prova a pensare, hai finito una storia d'amore da tempo e improvvisamente l'amore ritorna nella tua vita. Arriva un'onda che riaccende quella complessità di emozioni, pensieri, attivazioni fisiche, le emozioni si scrivono nel corpo, e tu ritorni a non solo a vivere la vita, ma a vivere l'amore, che è roba incredibile. Oppure entri in un nuovo progetto di lavoro e tu senti proprio che stai risvegliando la parte migliore di te, perché quella diventa una sfida in cui tu in qualche modo combatti con quello che sarà di te domani, dopodomani e fra 5 giorni oppure fra 5 anni. O ancora il risveglio della fede, per esempio, per alcune persone. Eri entrato in un buio, non sentivi più tutta una serie di cose che magari erano state importanti in altri passaggi della tua esistenza, arriva qualcosa come una folgorazione e cambia tutto. 800 24 00 24, se l'invito di Alberto ha svegliato, risvegliato in voi il desiderio di raccontare il vostro risveglio a 360 gradi al mattino o nella vita. Tra l'altro abbiamo proprio a disposizione 2 copie del CD di Giovanni che lui autograferà per voi. Quindi una cosa magnifica, ma Alberto, chiedo conferma anche a Giovanni, per me sostanzialmente il risveglio vuol dire sostanzialmente energia che si attiva e ci attiva spingendoci anche ad affacciarci al nuovo giorno oppure a nuove avventure, a nuove sfide. E per le persone che ci stanno sentendo e si sentono un po' carenti, non trovano questa energia, voglio regalare un po' di carica. Un brano dove non è possibile non risvegliarsi, non recuperare tutte le energie, viene proprio, ti fa sentire assolutamente diverso. Giovanni. È un po' la mia risposta al buio. Io ho passato questo momento di crisi, che è durato quasi 2 anni, per via di un attacco da parte del mondo accademico. Ne abbiamo già parlato, sì, tante volte. Ma io sono qua per dire l'ho risolto. Qualcosa dentro di me si è sbloccato, e quindi la musica è tornata nella mia mente come fosse una cascata, a partire da quel sogno, da quel concerto per violino e orchestra, e adesso io voglio solo afferrare attraverso la musica l'idea del nuovo, l'idea di quel giorno che ancora non ha vissuto mai nessuno, proprio all'interno di una compagine accademica che invece è completamente rivolta verso il passato, schiacciata dalla magnificenza dei capolavori che la storia ci ha regalato. Invece che bello poter afferrare un attimo un lembo di mistero relativo al nuovo che stiamo vivendo adesso in questo momento. Alberto, quindi c'è proprio l'energia di una nuova era, di una scoperta. Ma direi che in quello che sta dicendo Giovanni c'è poi anche una degli ingredienti fondamentali del risveglio, cioè la trasformazione dal vecchio al nuovo. E quando arriva il nuovo è innovazione, non è così facile per tutti essere lì pronti a stare dove l'innovazione ci porta. Cioè noi siamo proprio fatti un po' per resistere al cambiamento, per stare là dove abbiamo le nostre sicurezze. Il nuovo è qualcosa di differente, qualche cosa che ci porta in un altro territorio. Per il nuovo bisogna essere anche aperti. Se non hai quell'apertura ti chiudi. Sì, è vero, scusami. Volevo dire che questo dissidio dell'accettazione del nuovo lo vivo anche io in prima persona. Quindi la mia stessa musica vissuta dalla mia anima come un fatto irriverente, come un momento difficile da accettare anche per me stesso, però inevitabile, perché il nuovo deve essere afferrato. Giovanni, tu hai detto mi sono sbloccato, la musica è tornata, e quindi tu ti sentivi proprio in una situazione che secondo me è di molti di noi, quando viviamo un momento di grande difficoltà ci sentiamo dentro come paralizzati, morti, gelati, e poi quando riusciamo a metabolizzare questo momento di difficoltà sentiamo che si muove dentro di noi una nuova energia, qualcosa è cambiato. Sì, è proprio così, dalla pietra al prato, no? Pieno, esatto. Di ma se non ci fosse la pietra, ecco, allora io lì continuo a ribadire l'importanza anche del momento del buio, però dobbiamo renderci ricettivi, dobbiamo avere anche la forza di abbandonare quelle certezze, che poi significa abbandonare i legacci del passato, per pensare che ogni mattina inizia un giorno che non ha ancora mai vissuto nessuno. E questa idea di indeterminatezza, di mistero del presente, certo ci può far paura, però in un certo senso può essere l'occasione di un nostro rinnovamento interiore. Alberto, Giovanni dice questa complessità a volte ci può fare paura, è vero, ci sono giornate, momenti che appaiono così intricati che ci fanno passare la voglia di svegliarci, di alzarci. Sì, ci sono dei risvegli che sono particolarmente difficili perché ti sembra che tutti quei pezzi che dovrai gestire in quella giornata è davvero troppa roba, come dicono i ragazzi, per la tua capacità di sapervi far fronte. E quindi devi trovare un modo per poter entrare dentro quella complessità. Secondo me, di nuovo, uno dei consigli è una cosa per volta. Se tu non le vedi tutte insieme, non te ne fai spaventare, una cosa per volta probabilmente riuscirai a gestirla. 800 24 00 24, abbiamo bisogno delle vostre storie, dei vostri risvegli. In linea con noi abbiamo Giuseppe che ci chiama da Palermo. Buongiorno. Buongiorno. Tanto un piacere sentirvi, vi sento quotidianamente, un piacere anche sentire il giovane pianista che è tanto amato dal mio piccolo figlio che ha soli 2 anni e che lo ascolta in macchina. Grande. Assolutamente volentieri. E allora, io in realtà volevo parlarvi di un altro risveglio che è il mio risveglio mattutino, però ho seguito con attenzione ora le ultime cose che avete detto sui risvegli e mi piaceva, da assiduo ascoltatore di Radio 24, dare un po' un flash della mia esperienza di vita, che nonostante la mia giovane età, che ho forse giovane non più, 33 anni, ho vissuto dei momenti tragici, direi io, anche legati a due episodi importanti nella mia vita. Uno che mi ha investito direttamente perché ho avuto una patologia, insomma, che poteva avere degli esiti veramente invalidanti, l'altro invece ha colpito mio figlio che è stato neanche nato, ricoverato 20 giorni in rianimazione, ma adesso... Quindi, insomma, lei ha superato dei momenti assolutamente difficili. Sì, assolutamente la sua esperienza, Giuseppe, esperienza per dare modo... Brevemente è questa qui. Sì. Quando uno vive queste esperienze, dopo ha un effetto... rinasce rispetto a questa esperienza, non è più un risveglio ma è una rinascita. Rinascita. Grazie Giuseppe, perché Alberto, Giuseppe ci dice una cosa che spesso torna quando in trasmissione così apriamo un po' il nostro cuore e raccontiamo delle esperienze che ci fanno crescere, che per noi sono traumi, sono delle esperienze molto difficili e che poi ci danno nuova vita, no? Una volta metabolizzate e superate. Ma noi le nostre competenze nella vita le costruiamo proprio nei passaggi difficili, non nei passaggi facili. Fondamentalmente i passaggi complessi sono per noi gli allenamenti in cui mettiamo a punto il nostro sistema di reazione emotiva e in realtà poi riusciamo a prenderci quegli strumenti che ci fanno godere appieno della parte bella. Non potrebbe esistere una vita degna di questo nome se non avesse dentro il buio e la luce, e se noi non imparassimo ad accettare il buio non conosceremmo mai la meraviglia della luce. La zona grigia. Sì, di cui parlava Giovanni. Certamente, e infatti stavo anche riflettendo sulla musicalità della voce di Giuseppe, che è una voce che già contiene dentro di sé una musica energetica, un qualcosa di estremamente positivo che è contagioso. La positività è anche contagiosa e quindi è viva poter condividere le esperienze delle persone che sono passate attraverso il buio e ne sono uscite fuori. Life. Giovanni, mi racconti com'è nato questo brano? Ma è arrivato improvvisamente nella mia testa, è piombato nella mia testa e ha chiesto la mia attenzione. Però mi fa davvero pensare alla vita quotidiana di tutti i giorni con le sue difficoltà, alle persone che in questo momento sono alle prese con dei problemi piccoli e grandi. Sì. Però c'è questa drammatica ricerca di una luce, questa drammatica ricerca di panare una batassa della propria vita quotidiana. Ecco, poi però arrivano questi momenti. Ecco, noi abbiamo tutti diritto a questo momento in cui finalmente si vede un po' una luce. Ecco, è un brano in cui tu racconti la complessità, ma dai anche un po' il finale, un finale a lieto fine, un superamento di questa complessità. Quello c'è sempre nella mia musica. Ed io ho l'ambizione di pensare che la mia vicenda artistica individuale possa avere dei risvolti collettivi. Ecco, possa essere condivisa da tanti. I nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Essere Benessere, ci stanno scrivendo tantissimi messaggi al 349-238-6666, tutti ringraziandoti della tua musica e anche con grande piacere mi dicono: è tornato Alberto Pellai. Alberto, torna spesso. Intanto in linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ospiti e a tutti gli ascoltatori. In questa puntata dedicata al risveglio, in senso lato e profondo, e quindi un richiamo all'energia, non poteva mancare il professor Tirelli. Professore, lei ci aiuterà, no? A sbloccare le nostre energie. Parliamo dell'energia del risveglio, quella del mattino che ci spinge ad affrontare la giornata, però parliamo anche del risveglio, magari dell'attenzione, della concentrazione, che a volte latitano, soprattutto quando siamo stanchi. Siamo qui pronti ad un secondo risveglio, vogliamo ricaricarci di energia. In linea abbiamo il professor Tirelli, docente di tecniche complementari all'Università Cattolica di Milano, esperto anche del nostro reality radiofonico per imparare a mangiare bene per stare meglio. Professore, è ancora in linea con noi. Allora, professore, io pensavo che, dato che i nostri ascoltatori di Essere Benessere sono molto curiosi sempre di sapere i suoi punti magici, così li chiamiamo nel nostro reality Mangia con me, allora io le propongo di stimolare, di trovare i punti magici per Giovanni Allevi. Quindi ecco, metto proprio tra le sue mani un musicista, direi, di grande valore e una persona molto preziosa anche per me affettivamente. Professore. Sì, tra l'altro l'arte della salute è anche consona con l'arte della musica, sono due modi per prendersi cura di noi e quindi io credo che armonizzare anche il sistema energetico sia proprio una sintesi dell'armonizzazione di uno strumento, come accordare una chitarra o in questo caso un pianoforte. E ci sono dei punti e delle situazioni, tra l'altro energetiche, che bisogna evitare. La stagnazione a lungo termine non è prevista dalla fisiologia energetica, cioè così come nella vita esistono dei punti di stasi, dei momenti di stasi in cui non riusciamo a varcare quel famoso ostacolo, ad un certo punto la nostra energia ci dà degli input. Attraverso che cosa? Attraverso, per esempio, dei disturbi, delle sensazioni di malessere. A questo punto è necessario aiutarci. Per esempio, al mattino, per ritrovare quella grinta, quella forza che ci è necessaria per affrontare la giornata, possiamo usare una tecnica giapponese che si chiama Do-in. Do-in. Do-in è una tecnica di picchiettazione, si dice, cioè io prendo la mia mano, le mie mani, come se contenessi una piccola scodella e inizio a lavorare con dei piccoli battiti sulle cosce, sulle braccia, quasi a darmi dei piccoli pugni, diciamo, per risvegliare sull'epidermide delle zone, dei meridiani energetici che devono proprio essere bruscamente, in questo caso, risvegliati. Quindi è un picchiettamento sia con la mano come se contenesse una scodella, ma posso farlo anche col pugno. Do-in, alias picchiettamento energetico. Giovanni segna, perché poi, anzi, vedo che sta provando. Tutti anche Giovanni provando. Giovanni Allevi, e vediamo poi, perché dalle indicazioni del professor Tirelli, Giovanni, vorrei che poi tu trasformassi la sensazione che provi in musica, magari scegliendo un brano da farci ascoltare, così racconti con le note le sensazioni che gli esercizi, i punti magici del professor Tirelli producono. Quindi Do-in, il picchiettamento energetico, e che cosa suggerisce al nostro Giovanni Allevi? Per esempio, quando la mente è intrisa eccessivamente di pensieri, allora siamo un po' fuori fase perché abbiamo un ingolfamento della nostra parte cognitiva che può limitare talvolta al flusso artistico. Abbiamo un punto di reset, un punto di riallineamento di quella che è la capacità cognitiva, la capacità mentale. È un punto bellissimo, si chiama 22 di vasoconcezione, è situato alla base del collo, cioè se io sento il mio sterno, ad un certo punto vado sopra e sento una fossettina, una piccola fossettina tra le due clavicole. Sì, eccola qua. Ottimo, quello lo posso stimolare col dito indice, col dito medio, con una rotazione oraria, antioraria, alternata, per circa un minuto. È un punto meraviglioso perché ci consente di riattivare la concentrazione, ma una concentrazione creativa, non è una concentrazione eccessivamente razionale, è un'apertura verso quei canali che arrivano probabilmente, io credo, da un inconscio profondo che il maestro Allevi sicuramente ha esaltato nella sua natura, nel suo maestro essere. Allevi. Dunque, dottore, lei non, forse non può immaginare, ma qui nello studio siamo tutti quanti con il dito. Sempre così, con il dito nel no, buco. Ma io lo so perché lì c'è una candid camera che vi sta riprendendo e sta mettendo tutto in rete, ovviamente. E certo. Allora, Giovanni, qualcosa si è mosso? Sì, esatto, mosso, ecco appunto. Mosso. Il momento del mio risveglio, lo sblocco emotivo della mia anima che è avvenuta durante quel sogno in aereo, ha partorito questo concerto per violino e orchestra, di cui mi piacerebbe ascoltare un frammento del primo movimento, che è appunto mosso. E al violino, allora, facciamo una cosa tipo serissima, no? Dai! L'orchestra sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova, il violino solista, il polacco Mariusz Patyra, dirige il maestro, diciamo maestro, dirige Giovanni Allevi. Noi ci stiamo godendo questo brano e con Alberto ci stiamo godendo anche Giovanni che dirige per noi. Lo dirige per noi. Amici, un'emozione grande, perché tu sei davanti in questo momento al Carlo Felice. Allora, è davanti al talento dei professori d'orchestra e del solista, perché Mario Spatira in questo frangente mi regala delle emozioni, dei brividi. E devo dire che Giovanni Allevi, io adesso mi avvicino, ha la pelle d'oca. Sì. Ecco. Non so se il professor Tirelli ha una spiegazione su punti magici per questo, ma penso che sia il punto magico sia il cuore. Sì, il cuore è proprio lo shen, vuol dire lo spirito, la mente della nostra essenza, è quello che fa vibrare ogni nostra corda, ogni nostra profondità. Io credo che ci sia una bellissima assonanza tra questi due concetti, le vibrazioni armoniche del suono, della musica, con le vibrazioni armoniche dei livelli energetici, tant'è che una delle fonti di salute per la nostra, per il nostro benessere, è proprio la musica. La musica entra come un'onda laddove è armonica, laddove ha un suo principio proprio di cura di sé per gli altri, entra nei nostri sistemi energetici e ci fa anche guarire talvolta. Quindi io ringrazio il maestro Allevi per quello che fa per se stesso, ma anche per tutti noi, perché la sua opera è un'opera anche di grande aiuto per tutte le persone. Grazie, professor Tirelli. Che bello. Ha commosso, Giovanni. Noi invece ci sentiamo giovedì, professor Tirelli, certo, con altri punti magici. Buona bene, giornata, grazie, professore. Grazie, professore. Grazie. Dove grazie, andiamo noi adesso? Innanzitutto voglio dirvi che ci sono i due CD di Giovanni Allevi e quindi risvegliate la vostra creatività. Alberto, possiamo anche, se raccontare il risveglio diventa un pochino complesso, possiamo anche, che più diretto, più fresco, abbinare risveglio a un'immagine, perché vogliamo adesso nella seconda parte della trasmissione dare voce alle tante telefonate 800 24 00 24 che sono arrivate, chiamate, e due CD di Giovanni Allevi autografate anche a me, però fai l'autografo anche ad Alberto, una dedicona. Ecco che siamo tornati, Alberto. Una puntata ricaricante in cui parliamo di risveglio, di energia, ma il risveglio è anche qualche cosa che ci crea una sorta di distacco dagli affanni quotidiani e ci spinge ad avere a spostare il nostro sguardo in alto. Ma dipende qual è il risveglio di cui stiamo parlando. Uno può essere proprio il risveglio dentro al flusso dell'azione, un altro può essere invece il risveglio dentro al flusso di se stessi, e quindi a quel punto entri dentro ai tuoi pensieri, alle tue emozioni, e quello è un risveglio in solitudine di grande elevazione. Elevazione. Giovanni, elevazione, proprio questo brano che ci aiuta ad alzare lo sguardo per raggiungere nel risveglio il giusto distacco da tutto quello che è complicato, frenetico di corsa, per guardare le cose un po' dalla giusta distanza. Giusto, proprio così. Infatti il brano inizia in un'apparente semplicità. La mano destra solo per il pianoforte, accompagnata dal pizzicato degli archi, questa idea di leggerezza, e poi piano piano, il brano è molto, molto lungo, è molto complesso, poi piano piano si prendono le distanze dalle vicende quotidiane. Io mi sento una sorta di Cupido che va girando tra le nuvole, tra le nuvolette, e guarda le cose da un punto di vista così molto più distaccato. Alberto, ti piace Giovanni Allevi in senso, in forma di Cupido? Mi piace molto e soprattutto mi piace questo messaggio, cioè è bene alzare lo sguardo e ogni tanto guardare le cose dall'alto invece che dal di dentro. Allora, a proposito di elevazione e anche di spiritualità, c'è un libro uscito da pochissimi giorni che Alberto ha letto e che ci suggerisce, si intitola Il tempo è un Dio breve, la sua autrice è in linea con noi, ma prima di salutarla la introduciamo con un breve estratto dal suo libro. Forte. Cos'è essere forte? È resistere sempre? Oppure è arrendersi a quello che non si può impedire e così evitare la distruzione anticipata, sfiniti dal nostro lottare, e insieme la distruzione di chi ci sta intorno e amiamo, travolti dal nostro essere travolti? È rinunciare alla battaglia, a volte, assecondare le onde. Questo essere forte è così umano, così leggero, come la neve quando ancora è in volo, come la brezza in cui Dio si nasconde. Salutiamo Maria Pia Veladiano, l'autrice del Tempo è un Dio breve, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Con Alberto parlavamo prima della trasmissione e concordavamo nel fatto che, come la musica di Giovanni Allevi, lei fa della scrittura dei suoi libri anche strumenti di elevazione che aiutano un po' ad alzare lo sguardo. Alberto, beh, sì. Sarebbe bello che fosse così, ci si trova. Io penso proprio che questo romanzo sia la lettura da abbinare al CD di Giovanni. Sono entrati nella mia vita insieme, mi ha molto molto colpito. È un romanzo dove buio e luce si intersecano così potentemente, dove lo sguardo a volte si abbassa proprio nella profondità di ciò che non riusciamo a spiegare e poi si alza improvvisamente, ha degli squarci incredibili. L'ho fatto leggere, tra l'altro, oltre ad averlo letto io, e credo proprio un po' che, come abbiamo sentito, ha dentro una forza incredibile, tanto dolore ma anche tanto risveglio dal dolore. E c'è un signora Veladiano? Sì. No, dicevo che in realtà è questo tentativo di tenere insieme i due lati della vita. La vita è splendida e tremenda, dico sempre, e soltanto guardando entrambi gli aspetti si può vivere, si può accettare di vivere. Nascondere uno e vedere solo l'altro può essere un'illusione, però anche solo affidarsi soltanto all'aspetto del male è evidentemente un brutto modo di vivere. Vedere tutto e tenere insieme, alzare lo sguardo ogni tanto è così, sì. Allora salutiamo Maria Pia Veladiano, ma Maria Pia rimanga con noi all'ascolto perché voglio farle ascoltare, voglio far naturalmente ascoltare anche gli amici di Essere Benessere, un brano di Giovanni Allevi che si sposa un po' con le note che lei tocca nel suo romanzo. Intanto buona giornata. Giovanni. Sì, farsi trascinare via da questa musica è quello che io chiedo alla musica. Portami via, portami via. Portami via da me stesso. Ecco. Diego, da Brescia, buongiorno. Abbiamo gli ultimi secondi di trasmissione. Ah, fantastico, buongiorno a voi. Buongiorno Giovanni e a tutti voi. Buongiorno Diego, ciao. Buongiorno. E ascolta Giovanni, ti volevo chiedere una cosa semplicissima, ma penso che sia sentita da tutti. Innanzitutto ti ringrazio delle sensazioni bellissime che riesci... Diego, ci sfumano! E volevo semplicemente capire da dove riesci a esprimere queste sensazioni, perché sono bellissime e sono da tutti. Allora, noi Giovanni non riesce a rispondere perché noi dobbiamo chiudere. Intanto noi sul sito metteremo gli appuntamenti con Giovanni Allevi, ma adesso chiedo a Giovanni di trasferirsi su Facebook perché darà una risposta proprio al nostro ascoltatore.